parte di te parli solo degli altri, schivi gli sguardi. Potrei pure fidarmi, ma ne ho visti tanti di falsi e bugiardi. Siete squali ma avete la faccia da angeli, attratti dagli scandali. Mi scuso ma ho già altri piani. Ho una scorta di amiche alla porta della sativa, in borsa sogno musica distorta. Non ho voglia che la festa finisca o di tagliare vinta, ma in fondo non mi importa. Il tempo è denaro e ne faccio tanto. Quello ben speso in famiglia soltanto. Blessings su blessings, the girl is a fianco. Body dysmorphia ma non mi rifaccio. Se ti parlo entri in para. Pari piano fino all'alba. Parto prima di capire se siamo acqua passata. Vorresti portarmi a casa, concludere la serata. Appena ti cominci a chiederlo, io sono già andata. Accendo.